sono più, sono polvere. Alle 12:27 minuti primi andiamo a cominciare l'odierna trasmissione di Maldestra, l'osservatorio antifascista di Radio Onda Rossa. Qualche minuto di ritardo per aver anche giustamente lasciato spazio al presidio che sta iniziando in questo momento sotto Montecitorio per 100% L'Aquila. Ricordando anche l'appuntamento di domani, 17 giugno, in quel della Sapienza, giornata di epicentro solidale contro la speculazione per la ricostruzione verso il G8. Di un odio lontano, di una condanna che non so capire, stringendo forte tra le... Dalle 22 sotto il Ciao, concerto dei gruppi aquilani Rosso Malpelo, e poi da mezzanotte Denso al Baracca Sound e Downtown Rockers. Perché tutto possa finire, finire per non tornare. Tu mi parli, ma io non ti sento più. E tu mi guardi, ma io non ti vedo più. Non ho più figlio in questo dolore, non ho più una donna che mi possa aspettare, non ho più una terra su cui crescere e andare. Sono solo un numero da poter bruciare. Mi strapperanno la vita di dosso, si perderà nel cielo con il mio destino, con i miei sogni, con ogni ricordo, con il mio viso, con il tuo sorriso. Ma che muoia la carne tra la rabbia e il silenzio, non è importante, non fa poi così male. Che bruci i numeri incisi col fuoco, faranno del fuoco la mia via per scappare. Ma quello che è stato, che ho visto, che ho perso, non posso lasciarlo con il corpo nel fuoco. Voglio che viva questo dolore infinito, voglio che in cui vive non sia mai cancellato. Come fossi ancora vivo, ma io vivo non sono più. Sono polvere, sono dolore, non ho più figli, non ho più amore. Sono polvere, voi il vento mio. Le 17:29 andiamo a sfumare la consueta sigla di Maldestra, la memoria dei Senza Sicura, per iniziare questa trasmissione, per andare anche un po' a riprendere gli argomenti che avevamo cominciato a trattare la scorsa settimana, ovvero avevamo cominciato a raccontare un po' la nuova composizione di questo Parlamento europeo, accorgendoci anche di quanto poi fosse difficile in una sola puntata raccontare tutto quello che in qualche modo era stato mandato in Europa in quest'ultima tornata elettorale. Cominciamo quindi con una serie di puntate tematiche, con una serie di piccole finestre tematiche che vorremmo anche portare avanti magari nelle prossime settimane, per raccontare un po' le realtà specifiche di ogni paese, e cominciamo dai Paesi Bassi in collegamento telefonico con Alberto D'Argenzio, un corrispondente del Manifesto, per l'appunto dall'Olanda, nonché voce abbastanza consueta ormai di questa trasmissione quando si va a toccare quelle località. Ci senti? Evidentemente non ci sente, quindi aspettiamo ancora un momento mentre cerchiamo di rimettere a posto il collegamento. Gente strana, si odia, si ama, si accoltella la schiena, poi si perdona e si richiama. Arriva il fine settimana con la smania di apparire viva, schiava del riflesso in cui si ammira, s'atteggia e respira l'aria che lei stessa inquina. Se gli gira male parte e te regala una cinquina. Già dalla mattina nel mattatoio globale fa un caldo tropicale, non c'è sta un cazzo da guardare. Uguale in città, fra promesse e scommesse, sentiti e tassi di interesse. ripristinato il collegamento subito. Allora continuiamo. Allora, come precedentemente annunciato, allora parliamo di Olanda, dove le elezioni europee si sono svolte, se non sbaglio, una settimana prima di quelle nel resto dell'Unione, e che in qualche modo hanno prefigurato il risultato che poi ci sarebbe stato anche negli altri stati europei, anzi in qualche modo anche un po' più che prefigurato, dal momento che in Olanda quello che è stato il risultato dell'estrema destra si può anche definire senza mezzi termini un trionfo, dal momento che di fatto, se non sbaglio, diventa il secondo partito, il Partito delle Libertà diventa il secondo partito del paese. Un partito che comunque non è del tutto assimilabile a quello che è stato eletto, a quelli, agli altri che sono stati eletti anche nel resto d'Europa, visto che è un partito che presenta anche alcune anomalie che noi poi ti chiederemo di andarci a spiegare. E quindi non so se tu vuoi cominciare a raccontarci intanto. La questione, appunto, l'Olanda, ho preciso che non ha votato una settimana prima, ma ha votato il giovedì prima, inaugurando insieme al Regno Unito appunto le operazioni di voto per le europee, operazioni che sono spalmate in 4 giorni normalmente. Il risultato eclatante è appunto quello del partito di Geert Wilders, un risultato peraltro indicato dai sondaggi che in alcuni casi lo davano addirittura primo partito in Olanda, in realtà è il secondo a pochi punti, 2 punti dai democristiani del premier Balkenende, che si confermano primo partito, ed è comunque un partito che è riuscito a triplicare i propri voti fino al 17%. Questo è un risultato incredibile, ed è un risultato che però, tu dici, l'hai detto prima giustamente, non è un'estrema destra che rientri nei canoni tradizionali, né nell'estrema destra fascista come può essere un British National Party o un Front National francese, o è nemmeno un'estrema destra puramente xenofoba e razzista come l'è la Lega Nord. Questa è un'estrema destra che ha delle caratteristiche di chiaramente di xenofobia, di chiusura soprattutto all'Islam, ma è anche un'estrema destra aperta su altri temi, come per esempio quello dell'omosessualità, che invece è un tabù chiaramente per altre formazioni di estrema destra. Tra l'altro, se non sbaglio, in qualche modo si fa carico anche dell'eredità di Pim Fortuyn, no? Esattamente, infatti quello che colpisce molto in questa elezione olandese è come il Partito per la Libertà sia diventato abbia trovato la sua roccaforte in Rotterdam. Rotterdam è una città estremamente complessa, è la città di Pim Fortuyn, è la città però anche che ha un sindaco nato in Marocco, un sindaco marocchino del Partito Socialista, del Partito Laborista, ha una fortissima componente sociale turca e marocchina, oltretutto di seconda e terza generazione ormai, quindi con una capacità di integrazione che, per quanto con difficoltà, si è comunque sviluppata in questi anni. Eppure, pur in questo contesto che potrebbe dire, con un sindaco di origine magrebina, potrebbe indicare una forma di successo in questa dinamica di integrazione, ha avuto invece un voto massicciamente per il Partito per la Libertà di Wilders, quando invece ad Amsterdam i partiti che hanno trionfato sono stati i partiti liberali, in particolare quello del D66, che è un partito liberale progressista, aperto sia sul tema dell'immigrazione che su quello dei diritti individuali. Ebbene, c'è questo un po' il duopolio in Olanda fra le due principali città, ma al tempo stesso poi c'è effettivamente poi un successo che è stato nazionale di questa formazione che appunto eredita quello scontento catalizzato prima da Pim Fortuyn, e lo ha sommato ad una caratteristica ampliata che è quella dell'islamofobia molto forte in Geert Wilders, che è l'autore di Fitna, quel cortometraggio di 18 minuti in cui veniva praticamente, si creava un'equiparazione fra Corano e il Mein Kampf di Hitler, in cui insomma veniva molto stigmatizzato quello che è il libro sacro della religione islamica, che poi tra l'altro ha creato grossi problemi anche a Wilders, accusato, minacciato di morte, considerato persona non grata nel Regno Unito, e però evidentemente molto amato in patria, visto che appunto ha preso centinaia di migliaia di voti. I suoi 4 eurodeputati saranno nel Parlamento europeo, però da quel che ha detto Wilders, che non dovrebbe arrivare qui a Bruxelles e Strasburgo, non dovrebbero partecipare a nessun gruppo. Questa è anche un'altra caratteristica di quelle che vedremo. Infatti questa era un po' una delle domande che ti volevo fare, era questo: dal momento che presenta appunto, come stavi ricordando, delle caratteristiche perlomeno anomale, ci sembrava anche difficile immaginarcelo nel gruppo che probabilmente si andrà a formare di tutto il resto dell'accozzaglia fascista che è stata eletta. Il problema secondo me è che è tutto da vedere cosa si formerà, nel senso che a destra è ben difficile capire cosa possa succedere, nel senso che c'è un nuovo gruppo conservatore che si creerà probabilmente dalle ceneri dell'Eurodestra, la formazione a cui partecipava anche l'Alleanza Nazionale, in cui è ancora dentro la Lega Nord. È un gruppo conservatore capitanato dai conservatori britannici, a cui aderiranno anche il partito DS del premier, ex premier ceco Topolánek, e quello di Diritto e Giustizia dei fratelli Kaczynski polacchi. E questo è, diciamo, la destra, una destra conservatrice, anche questa molto chiusa, eurocritica, e comunque vada una destra potabile, detti in termini politici. Dopodiché cosa ci sarà alla sua destra? Ecco, questo è un po' difficile da capire, perché fra le formazioni di estrema destra c'è una voglia di sdoganamento molto forte. Il Frans Bellang fiammingo, che nasce una formazione razzista, xenofoba, identitaria, indipendentista, ha un grandissimo desiderio di diventare, diciamo, di destra normale, e avrebbe l'aiuto della Lega Nord da questo punto di vista. Geert Wilders, che è considerato un po' un jolly di queste elezioni, è desiderato da tutti, ma al tempo stesso ha detto che non vuole partecipare con nessuno, perché uno dei suoi punti forti della campagna elettorale è proprio: noi siamo noi e non vogliamo andare con nessun altro gruppo. Ebbene, ci sono una serie di dinamiche, dall'altro lato ci sono i fascisti, considerati più fascisti appunto, come il British National Party, i rumeni di Romania Mare o Front National francese, che nessuno li vuole praticamente, per cui sarà un po' difficile capire, perché pur avendo avuto un grande successo nelle urne, poi non è detto che questi partiti riescano a incidere nella vita parlamentare. Per incidere devi avere un gruppo, devi avere un gruppo anche più possibilmente forte. Loro hanno i numeri per fare un gruppo, ma non hanno le dinamiche interne per riuscirci, anche perché le formazioni di estrema destra tendono a pensare in termini molto nazionalistici, per cui hanno difficoltà a creare un discorso europeo. Sì, che tra l'altro diciamo, l'esplosione o l'implosione del precedente gruppo che avevano provato in qualche modo a mettere su, che sì, era, se non sbaglio, Identità e Tradizione. Identità, Tradizione e Sovranità, che è esploso proprio perché a seguito delle polemiche italo-rumene sulla, esatto, questione dei Rom e dei rumeni, era nato nel gennaio 2000 e 8, a novembre del 2008, anzi gennaio 2007, scusate, nel novembre del 2007 era già finito. Perché? Perché appunto c'era stata questa battaglia interna fra i rumeni di Romania Mare e Alessandro Mussolini, che aveva attaccato i rumeni in quanto tali, non solamente Rom. E questa è una dimostrazione di come queste piccole ripicche possono poi minare la vita di un gruppo. Dall'altro lato, avere un gruppo è molto importante, perché accedi a finanziamenti, a personale, puoi aspirare a poltrone, e poltrone vuol dire presidenza, vicepresidenza di commissione, e anche a dossier. Quindi è effettivamente un gioco nella dinamica del Parlamento europeo, un gioco che invece, se sei nei non iscritti, assolutamente non puoi avere. Assolutamente. Senti, tu in realtà sei stato molto esauriente su tutta una parte che ti volevamo chiedere, che era quella appunto sulla composizione e su come si sarebbero ridisegnate le geografie del Parlamento europeo. E io ti chiederei un'ultima cosa, un po' più rispetto a quella che è stata la campagna elettorale invece del Partito delle Libertà, proprio perché tu raccontavi anche appunto che questo successo elettorale avviene anche in una città che ha un sindaco marocchino, eccetera. Che tipo di campagna elettorale stava portando avanti? Qual è stato il contesto in cui poi c'è stata questa affermazione? Diciamo che è una marea che viene appunto da lontano, quella del Partito della Libertà. Gli slogan ultimi forti sono degli slogan catalizzatori, come il no alla Turchia in Europa, quindi il no ad un paese con milioni di abitanti che è destinato ad essere più, quando entrerà in Europa, si centrerà comunque più popolato della Germania, quindi il paese col maggior numero di deputati. Anche, che tra l'altro questo potrebbe essere anche uno dei terreni di incontro con le altre formazioni xenofobe. Sicuramente tutti, ma anche l'UMP di Nicolas Sarkozy ha una posizione su questo punto molto chiusa, no alla Turchia, per cui diciamo che è uno slogan che prende anche molto in quella che la destra anche all'interno del Partito Popolare Europeo. Oltre a ciò c'è appunto questa volontà, ricordiamolo, di prescare nel proletariato, nelle fasce più deboli della popolazione. Uno delle chiare lezioni di questo voto europeo è di come, di fronte a una crisi economica che erode la capacità di acquisto delle classi più basse della popolazione, che mette queste classi di bassa popolazione in diretta concorrenza con gli immigrati, che sono gli altri poveri fondamentalmente, ebbene in questo contesto di incertezza, di paura di perdere quello che si è avuto, Ebbene, le formazioni di estrema destra sono quelle che meglio degli altri riescono a catalizzare il voto, molto più dei partiti socialdemocratici che sono tutti in caduta, ma anche meglio delle formazioni di estrema sinistra che solamente in alcuni paesi, del caso della Grecia in particolare, del Portogallo, sono riusciti a catalizzare questa paura. Per il resto questo voto popolare, proletario, o della piccola borghesia impaurita è andato alle formazioni di estrema destra, e questo è un dato chiaramente importante perché deve far riflettere su come poi, su che tipo di risposta cerca la popolazione, su che tipo di capacità di gestire queste paure hanno poi partiti tradizionali iscritti a una dinamica, diciamo, democratica. Va bene, senti, noi ti ringraziamo, sei stato molto esauriente. Io non so se tu vuoi aggiungere qualcosa, oppure sì, in ogni caso probabilmente ti sfrutteremo ancora prossimamente per perfetto, continuare allora questi per la prossima volta. Va bene, allora un abbraccio, alla prossima, grazie, ciao. I cittadini che vorranno partecipare assieme alle forze dell'ordine a controllare il territorio, a segnalare i clandestini, a segnalare chi vuole rubare e impedire a costoro di delinquere. Ci hanno accusato di voler tornare alle camicie nere. Noi vogliamo consentire ai cittadini che vogliono partecipare di partecipare. Li abbiamo chiamate associazioni, volontari per la sicurezza. Ci hanno risposto che sono le ronde. Ebbene sì, vogliamo le ronde se è così. Chiamiamole col loro nome, non abbiamo paura. Ci sembrava giusto lasciare la parola al nostrissimo ministro dell'Interno, a cui diamo la palma dello xenofobo di quest'oggi. È il ministro Maroni a Pontida il 14 giugno scorso, in cui intorno alla questione delle cosiddette, come le chiamano, non ronde, loro hanno un altro nome, ma che ovviamente ormai è nel linguaggio comune parlare di ronde, linguaggio comune a partire da un caso piuttosto recente, il caso delle cosiddette ronde nere, della organizzazione della Guardia Nazionale, che vede rispuntare fuori agli onori della cronaca un vecchio personaggio, nel senso che i suoi metodi, le sue idee e il suo modo di proporre una forma che sembrerebbe tanto bislacca di organizzazione per la sicurezza, per la sicurezza delle strade, per la sicurezza privata, ricorda da tanto vecchie organizzazioni di questo paese. Stiamo parlando ovviamente di Gaetano Saia o Saia come diavolo si chiama, e che è una figura in realtà già da tempo appunto balzata sulle prime pagine dei giornali, o meglio nel 2005 questo Gaetano Saia venne inquisito per aver costituito un'organizzazione chiamata DSSA, che appunto ormai parliamo esattamente 4 anni fa, luglio 2005, le procure Genova e Milano fecero 3 arresti e 25 perquisizioni. Quel cosiddetto Dipartimento di Studi Strategici Antiterrorismo era una struttura illegale, o almeno era stata insomma indicata come tale dai magistrati, parallela rispetto all'intelligence. Era un'indagine che in realtà era partita un po' di tempo prima, perché si indagava, se vi ricordate, sull'omicidio di Fabrizio Quattrocchi, il mercenario che fu rapito e ucciso di fronte alle telecamere in Iraq al grido di ecco come muore un italiano. Ora, questo apparato giudicato appunto poi illegale era a sua volta collegato con strutture politiche chiamate Destra Nazionale, MSI, sindacato di forze di polizia, ed è proprio qua che vogliamo arrivare, basandoci ovviamente insomma su una, non solo questa non è tutta fra il nostro sacco ovviamente, ma anche una sintesi molto interessante di Saverio Ferrari dell'Osservatorio Democratico sulle Nuove Destre, che è reperibile su Peace Reporter. Abbiamo voluto dare una attimo di dedicare un attimo di riflessione a queste figure delle Ronde Nere, che al di là della loro immagine folcloristica, ovviamente gravissima, di ripresa di tutto un immaginario nazistoide, paramilitare e quant'altro, insomma, ci ricordino le divise brune e i cinturoni di pelle, è un organo costituito per un terzo da forze dell'ordine. Ora, questa cosa in teoria dovrebbe rassicurare i cittadini, ma semmai invece li dovrebbe inquietare assai, perché si tratta quindi di del venire alla luce di una generale o comunque diffusa appartenenza degli apparati di pubblica sicurezza dello Stato italiano a una ideologia di estrema destra, ipernazionalista, che volendo può anche dire di non essere di destra o di sinistra, ma sicuramente ha una fortissima connotazione identitaria, perché riprende tutta una serie di simbologie, immaginari, appunto, di organizzazioni già che hanno già avuto la loro ribalta in Europa e in questo paese. Infatti, questo, oltre a questo terzo di forze dell'ordine, che poi appunto ci chiediamo se non siano un po' di più, sono diciamo tanti collegamenti con strutture massoniche come Divulgazione 1, di cui Saia si rivendica l'appartenenza. Progetti già passati per i mass media come il progetto Arianna, cita Ferrari, cita la Legione Brenno, che era nata durante la guerra dei Balcani per difendere un cosiddetto la frontiera orientale italiana dal rischio di un dilagare della crisi balcanica dell'allora guerra serbo-croata, a cui tra l'altro ricordiamo molti personaggi dell'estrema destra neofascista hanno partecipato, italiani hanno partecipato o almeno rivendicano di aver partecipato spesso nelle formazioni paramilitari cattoliche di ispirazione ultracattolica croata. Così come, che anche qua parliamo di un corpo costituito da poliziotti, carabinieri ed ex agenti segreti, la falange armata dei primi anni 90, insomma tutta una serie di strutture, possiamo definirle parallele, alle forze pubbliche di polizia e dei servizi, che ci stanno dipingendo come una specie di massa di Sturmtruppen. Ora, quello che invece vogliamo cercare di fare è dare, insomma, un quadro che sia quello di personaggi molto dentro ai database, agli archivi del Ministero dell'Interno, con una credibilità dentro ambienti della politica istituzionale comunque abbastanza consolidata, perché oltre ad essere già di nuovo in attività dopo appena 4 anni dall'inchiesta sulla DSSA, Gaetano Saia ha avuto anche delle avance dal Presidente del Consiglio, con delle foto pubblicate proprio in quei mesi, tra l'altro mentre ai domiciliari di un incontro fra la moglie e l'attuale Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, e tutta una serie, insomma, di esternazioni che in qualche maniera rimandano a una sicuramente a qualcosa che, se non proprio nei panni delle Ronde Nere, della DSSA o di qualsiasi altro, insomma, corpo paramilitare, comunque ha delle parole d'ordine che vivono e insomma non capiamo perché vengano considerate assurde nella bocca del signor Gaetano Saia, o se invece le pronuncia appunto un personaggio come il ministro dell'Interno Roberto Maroni. Queste sono legittima propaganda di progetti politici che sono tuttora in discussione presso le nostre camere, nel senso ovviamente di Paese Italia, ovviamente non rappresentative della voce di questa radio in maniera più assoluta, però presso gli organi istituzionali di questo Paese, come il pacchetto sicurezza e quegli emendamenti che riguardano appunto la costituzione di ronde verdi, nere o di qualsiasi altro tipo. Ovviamente auspichiamo che se le ronde di questo tipo vengano insomma messe in piedi, semmai siano non solamente una boutade di internet, ma siano realistiche, anche delle a quel punto necessarie forme di autodifesa dei cittadini da parte di quelle che sono strutture, insomma, di chiara ispirazione neofascista e che annoverano fra il proprio nelle proprie fila delle forze dell'ordine, che per noi è tutt'altro che un'assicurazione, dati i insomma l'altissima incidenza di violenze e brutalità che le forze dell'ordine italiane continuano a commettere in questo paese. To Brighton Beach and the park for the disco. Just step the foot and hit the foot, все будет хорошо. Things are actually sacred. And tapping your foot to the ceremony just won't do. Alle 12:53 minuti, verso la chiusura della trasmissione, spendiamo gli ultimi minuti di questa puntata per andare a leggervi una lettera che tra l'altro potete trovare anche sul nostro blog maldestra.noblogs.org e potete trovare probabilmente anche un po' in giro per la rete, visto che sta cominciando a circolare da questa settimana. Una lettera che in qualche modo cerca di andare a portare l'attenzione su alcune discutibili operazioni che sono in atto in questo momento e di cui vi andiamo a dare lettura in questo proprio adesso. Ironic, love atomic, but ironic. L'Afrique avec des gens honnêtes, avec un œil dans nos assiettes. Tu fais le bon sorti de l'usine, l'air agrippant de Steve McQueen. Les pigeons font sur nos toitures, ce que tu fais toi sur nos voitures. Autant qu'ils visent les monuments, que toi t'évites les gouvernants. T'as de l'avancement qui se croise les bras, dans les idées lorsque t'en as. Tu bouges à droite pour le turpin, tu votes à gauche pour faire du bien. Comme une peau d'âne qui aurait pas tout, t'es de la pèlerine et rien en dessous. De la baudruche assermentée, gonflée au vent de la société. Dans le panier de la connerie, tu vas taper sur les gars qui n'ont pas voulu marcher tout droit. Et que ton odeur n'impressionne pas, tu me diras que tu fais ton boulot. T'es pas payé pour le cerveau, heureusement qu'on ne paye pas pour ça. Parce que sinon tu boufferais quoi. T'es qu'un flic de Paris, un sale flic de Paname. T'es qu'un flic de Paris, un sale flic de Paname. T'es qu'un flic de Paris, fort assassin. T'es qu'un flic de Paris, un sale flic de Paname. T'es qu'un flic de Paris, un sale flic de Paname. T'es qu'un flic de Paris, fort assassin. Depuis que t'as prononcé tes vœux, tu as l'esprit qui boite un peu. Moi j'ai parlé coup du regret, moi j'ai parlé coup de Beaujolais. Si tu fous tes amis au clou, pour un danger qui te sert le coup. Garde le ridicule qu'on te donne, c'est le seul moins qui ne tue personne. Chez toi quand on pose des questions, c'est pas un coup de conversation. Même quand t'interroges le bon Dieu, il ressort jamais avec des bleus. T'as la manière de te rendre... E scusate, dobbiamo interrompere la prevista lettura di questa lettera, perché invece c'è un aggiornamento dalla piazza di Montecitorio, un aggiornamento che non vogliamo sia per adesso ovviamente un appello, sicuramente è un appello all'attenzione. In questo momento gli aquilani stanno raggiungendo piazza Montecitorio, mentre gli attivisti romani di Epicentro Solidale già sono presenti in piazza. Il problema è che la solita, insomma, il solito numeretto di una ventina, non di più, attivisti di Casa Pound Italia si è appizzato, si è nascosto a Piazza del Collegio Romano, per capirci, di fronte al commissariato di polizia, se non sbaglio, di Trevi Campomarzio, il commissariato che si trova quindi alle spalle esattamente della Camera dei Deputati di Montecitorio. Quindi l'invito che facciamo, ovviamente nel frattempo che si cerca di sbrigare questa pratica, è quella di dare, ovviamente per tenere, insomma, fuori da qualunque forma di strumentalizzazione che 20 persone, insomma, che di quali poi l'attiva presenza in questi giorni, insomma, è tutta da vedere nelle terre abruzzesi. Invitiamo ovviamente tutti e tutte quelli che stanno comunque raggiungendo la piazza a prestare attenzione. Ovviamente questo adesso, ad ora, non significa insomma che è una situazione allarmante, anzi immaginiamo che la volontà di queste dei neonazisti di posizionarsi di fronte e attendere il concentramento di fronte al commissariato di Trevi Campomarzio in Piazza del Collegio Romano sia ovviamente indicativa della diciamo sicuramente debolezza delle proprie posizioni e della, diciamo, propria coda di paglia a partecipare al presidio di solidarietà degli abruzzesi a Piazza Montecitorio. E appunto, allora ricominciamo con la prevista lettura, tanto sempre di loro e purtroppo anche di altri si va a parlare. Imbarazzo o rabbia, o forse entrambi, è difficile scegliere le parole con cui rapportarci all'altro. L'altro in questione è il neonato quotidiano di Piero Sansonetti, ex direttore di Liberazione in rotta col giornale e col partito, lanciato in questa nuova iniziativa editoriale che gli consentisse di esprimere la sua, virgolettato, nuova idea di sinistra, capace di rompere i tabù e dialogare oltre i vecchi steccati. Fin qui nulla di male, dal momento che ognuno dialoga con chi gli pare, verrebbe da dire. Ma nelle colonne dell'altro gli interlocutori sono veramente quelli che non ti aspetteresti in un giornale che si fregia del sottotitolo La Sinistra Quotidiana. c'è l'intervista a Gianluca Iannone, il capo dei cosiddetti fascisti del terzo millennio di Casa Pound, mezza pagina senza contraddittorio in cui si bercia contro l'antifascismo e si rivendicano inesistenti lotte sociali in una forma che ricorda più il volantino di propaganda che l'intervista critica. Tra l'altro questa intervista è comparsa nel giorno del corteo contro il G8 Sicurezza, a cui era stato dedicato ben poco spazio. C'è il racconto dell'incendio di Casa Pound Bologna, con tanto di eroica descrizione del federale locale, virgolettato personaggio interessante e controverso, come lo definisce l'articolista. Interessante e controverso è una definizione perlomeno curiosa per chi neanche 2 anni fa è finito in carcere con l'accusa di associazione a delinquere con l'aggravante razzista per una 15ina di pestaggi e spedizioni punitive ai danni di immigrati. Ma non c'è da stupirsi se a scrivere di politica è Ugo Maria Tassinari, giornalista e studioso della destra radicale, che nella più classica tradizione dell'esperto che si innamora del proprio oggetto di studio, oggi partecipa e promuove le iniziative dei neofascisti stessi, oltre che a bazzicare il loro forum. Oppure, se ad occuparsi di futurismo viene chiamato Miro Renzaglia, principale animatore della galassia culturale della destra radicale e firma di punta di No Reporter, il sito di informazione gestito da Gabriele Adinolfi, ex terza posizione, condannato e poi riparato a Parigi, rientrato in Italia recentemente per la sopraggiunta prescrizione, sito che ogni anno non manca di ricordare con qualche articolo ammiccante il compleanno di Adolf Hitler o la triste sconfitta militare di quel cancelliere che per primo cercò di unificare l'Europa. Ci chiediamo, sono questi gli steccati da superare? Alla nuova sinistra serve rompere questo tabù? La ricerca di un approccio laico e post-ideologico alla società deve proprio passare per la legittimazione di chi, pur spacciandosi per post, in realtà è sempre lo stesso reazionario xenofobo di sempre? Forse in questa frenetica fuga dal Novecento Sansonetti avrebbe dovuto guardare un po' più attentamente chi firma il suo giornale. Non per i trascorsi, praticamente tutti i quadri di Casa Pound provengono dal movimento politico e ne hanno condiviso le traversie giudiziarie che l'hanno portato allo scioglimento in base al decreto Mancino dopo uno stilicidio di aggressioni razziste e xenofobe su tutto il territorio italiano. Già che si fa sempre in tempo a cambiare idea, ma per il presente. Al di là di facili slogan di facciata, l'universo sedicente non conforme che ruota intorno a Casa Pound, in cui gravitano Tassinari come Iannone e come Renzaglia, è tutto fuorché nuovo. Non sono nuovi i loro riferimenti culturali, da Benito Mussolini alla RSI. Non è nuova la loro violenza, quella delle mazze tricolori contro gli studenti a Piazza Navona, né quella dell'assalto alla, o quella dell'assalto alla casa occupata di Casa Albertone a Roma, con tanto di coltellate al ventre a una madre di famiglia straniera. Non parliamo di generiche aggressioni di qualche anonimo razzista, ma di episodi che hanno visto coinvolti in prima linea e direttamente tutti i quadri di questa organizzazione. Non sono nuovi nemmeno i loro protettori politici, la giunta omofoba e xenofoba di Flavio Tosi a Verona o quella romana di Gianni Alemanno, secondo cui aggredire un immigrato al grido di sporco negro è un problema di bullismo. Chissà come fanno Sansonetti e i suoi collaboratori, Colombo e Azzaro in primis, a guardare con preoccupazione alla deriva xenofoba che travolge sia l'Italia che l'Europa tutta e allo stesso tempo a flirtare intellettualmente con i fascio futuristi. Voglia di protagonismo? La tentazione di porre e di concludere gli anni 70? Superare gli opposti estremismi oppure appiattirli in una destra o sinistra in fondo come erano i ragazzi che lottavano per un ideale, questo è il virgolettato. Gli stessi ideali che portavano partigiani e repubblichini a combattere su due opposte barricate. Cosa c'è di nuovo? Cosa c'è di post? Davvero invitare a un dibattito Giampiero Mughini o Valerio Morucci è sufficiente per candidarsi a interlocutore democratico, laico e trasversale? Che te resta di là, si non faire parler toi, jouer le jeu des médias. C'è una strategia politica precisa che un pezzo della destra radicale italiana sta perseguendo da anni: rappresentare se stessa come un universo nuovo, pragmatico, scevro da dogmi e pregiudizi, capace di dialogare a 360 gradi e di comparire sulle pagine di Cioè come a Porta a Porta o in una giunta comunale. Si dipinge come vittima di trinarciuto antifascismo, ovviamente non usiamo noi questi termini, ma i fascisti, reo di volerne impedire la libertà di espressione, ed in questo trova facile sponda nel più generale discorso di revisionismo e negazione dei valori democratici e civili portato avanti in maniera ben più incisiva da PDL. Il superamento del binomio fascismo-antifascismo alla ricerca di una sintesi superiore ha poco a che vedere con la voglia di uscire dal Novecento. C'è chi queste cose le diceva già 30 anni fa, si chiamava Terza Posizione ed è stata sciolta all'indomani della strage di Bologna. Forse Sansonetti può farsi raccontare qualcosa dal loro esperto come Maria Tassinari, che nei suoi libri descrive Terza Posizione o Einar come una specie di autonomia operaia di destra, o ancora meglio, da Gabriele Adinolfi, ex dirigente di Terza Posizione e vero regista culturale di questa operazione politica in atto, che non a caso nei suoi scritti saluta esplicitamente l'altro come uno dei fenomeni innovatori più positivi nel panorama politico nazionale, insieme al trionfo leghista ed all'affermazione del PDL. Bella compagnia, insomma. Operazione a cui l'altro partecipa in buono e malafede e che ogni giorno legittima un po' di più i neofascisti, i razzisti, gli omofobi. Facciamo anche notare che questo non è il primo appello che viene diffuso, invitando la sinistra di Movimento Democratica, la cittadinanza attiva e le culture antifasciste a prendere una posizione definitiva contro la tendenza alla normalizzazione di organizzazioni neofasciste, con particolare attenzione a Casa Pound e all'ambiguità della sua facciata ripulita, appelli che in altre occasioni hanno ricevuto l'adesione anche di associazioni partigiane, di partiti e movimenti prossimi alla linea editoriale dell'altro e delle testate che ospitano queste righe, righe che vogliono essere un contributo a chiudere una fase di eccessiva ingenuità con cui stampa e mass media, al di là della presunta provenienza culturale e politica, offrono riflettori a quei rottami del peggior Novecento che in modo sempre più furbo si riaffacciano nei nostri territori. La firma di questa lettera è di Maldestre del comitato Madri per Roma Città Aperta, la potete trovare appunto oltre ovviamente sui blog di questi due blog, maldestra.noblogs.org e madriperromacittaaperta.noblogs.org, anche un po' in giro sparse per la rete. Il culo si sdraia sul mio cuscino, partono minacce, intimidazioni, il commissario va da mio padre, inizia a fare... E su queste parole, sulle parole della lettera che ci siamo sentiti dover scrivere, ovviamente non per aprire polemiche ma per invitare diciamo tutta quella cittadinanza di sinistra antifascista a in qualche maniera sentirsi un po' sempre più allergica a queste operazioni culturali che tendono a ridurre le differenze con i neonazisti, chiudiamo questa trasmissione di oggi 16 giugno 2009 di Maldestra e ovviamente invitando tutti e tutte a continuare a tenersi sintonizzati per i prossimi appuntamenti del palinsesto radiofonico e per aggiornamenti dalla piazza di Montecitorio. Porta la luce che si accende, l'orologio che si blocca, 5 del mattino sfondano la porta, la musica si stoppa, mi tappano la bocca, 5 del mattino bussano alla porta, è fuoco che mi scotta e non è la prima volta, 5 del mattino sfondano la porta, era quella prima volta, una strada si è interrotta, mi prendono con forza, mi portano fuori, mia mamma sta svenendo e non dimentico i dolori, bruciore dentro al petto, cade il mio rispetto, io sempre più legittimato a premere un grilletto, mi ritrovo da solo alle 7 del mattino, io e il mio cuore da bambino in mezzo a tutto sto casino, quello che posso fare, chiamare mio cognato, a pizza tutto al prato nel furgone abbandonato, è la solita routine, rinizia l'altra fila, io in fila e via la sfiga, botte di gin in mezzo a una strada, senza neanche una casa, fumando tutto il giorno, uccidendo ogni giornata, e i miei amici non sapevano